sono attaccato. Se accendi, acceso semi, come sto arrivando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aspetta che faccio la cordatura, se no cazzo, sono 70 watt quasi, aspetta un secondo, ti lascio il telefono, la parte, aspetta un secondo che faccio la cordatura. Sono 80. Quanto arrivo da te? 9,26. È stato 1,4. Mi sembra. Che è stato? Sì. Che è stato fatto? Come è più? Se non piove, io sono pregato. Entra. È capito, e quindi anche col cable me l'ha fatto, me l'ha fatto anche col cable, me l'ha fatto, cazzo, a un certo punto in FM me l'ha fatto, la in AM mi dava 50 watt, in FM si è sceso a 30, cazzo. E io la vedo, si ci vuole fare. Ora, adesso c'ho un lettore stazionale, un lettore che ascendere, figurati tu. Ora, a volte quando fa vento sale 1,5 e cosa leggere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora. Ok, sono 9,20, aspetta un secondo. Adesso sono a potenza media. Adesso sono a bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 9,5, infatti. Me lo sono immaginato. Ok, adesso vi rimesso a posto tutte le cose. Non sapete, solamente quello. Già va bene comunque, no? Se rimette il finale 477, non sai quanto pompa cazzo questo apparecchio qua. 40 watt come minimo. Sto pilotando con 5 watt, non di più. Non di tondi, 5 watt. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, tre prova. Prova, prova, prova, prova. Che avanti, Luca, sei tu? Beato. Buonasera, Gio Maria. Allora, racconta. Dimmi, qua oggi sono libero. Ho lavorato stamattina perché adesso sto lavorando così, ma la volta. Perché non c'è il tanto, capito? Ah. Allora, stasera, tutta la sera libero, chi si è? A capa tutta la sera libera, sì. Ma io sto uscendo sta parecchio. Io ti sento bene, chiaro, bene te, ma sono con l'antenino, sono con l'antenino, non ti sento benissimo. E io come sto uscendo bene, capo? Una bomba, sì, sento benissimo. Hola, hola, hola, hola, hola, sembra tutto in bene, sì, già va bene, va. Ho preso il vento. Ho capito. Adesso sto chiedendo che c'è il gesto, dai, ci sentiamo tu. Capa, capa, ho fermo questo cobra, spero che funziona bene però. Vabbè, ciao a tutti, sentiamo. No, ciao, male, ce lo sentiamo. Che avanti? Hola, hola. C'è qualcuno? Oh, Ares, lo conosci? A voce, ce l'aveva anche Franco Califfo. Ah, facciamo il copper e facciamo lo schifo, gli ho fatti i rossi. Già va bene. È un vecchiotto, l'ho aperto l'ho anche. Su 40 già ci va. Ma regalata, vabbè. Diciamo che. Ora, fermando, sì. Dunque, funziona bene, l'unica cosa che non sale molto lo smitter, però funziona bene. Caro mio. Già va bene. 48, lo conosci camerale, ha letto, 48 l'ho tolto. E ho messo questo, ci puntiamo questo qua, già va bene. Mamma mia. E stasera sono a casa solo. Non avevo voglia di stare in giro. Oh, via. E dove ce l'è? Ce l'è? Ce l'è? Fanno male qua, tutto il corpo, mamma mia. Quelli sono gli soldi del lavoro. Attenzione, perché anch'io sono così, adesso devo mettere il busto io. E devo mettere un busto in tela con delle stecche, perché se no mi fa male la schiena. Quando arrabbia, Gabri. Cosa vuoi? Mamma mia, quando la biglia sei incredibile. Aia! Vabbè. Finita? Che? Ah? Gianni! Avanti! Buonasera! Buonasera! Buonasera a lei! Sì, ciao, non tu! Papà. Ciao! Mamma mia, ma cosa prendi dietro? Aspetta un attimo! E oggi tu sei... Avanti l'amico che è entrato, che sei oggi? Ti comprendo nulla, come ti vedi. Ma se la stanno appena. Prova così, guarda. Sono dovuto andare alla gamba, non mi combina una giuscia già. Mamma mia, aspetta che ti accendo la stufa, aspetta. Mamma mia, guarda. C'è un po' di freddino. Non hai fatto dormire nulla. Ma l'hai riconosciuto chi era quello che era? Mi sembra Vattore. Oh, ci capiva. Ma tu sei dove? Io sono, sotto alto. E con che appare che stai uscendo? Che sono rifugato? Pari! Senti tutto quanto amplificato, io non ti ho mai sentito. Guarda adesso! È per poco, troppo poco. Non me la va bene. Allora, ci sono dei giorni che non è perfetto. La radio non è chiara, anche lui che dice che va bene, non è chiara. Esatto, la radio. E comunque mi piace questo apparecchio, tutto non va bene. Io ho fatto i tappi rossi, io ho fatto. E con perché? Rossi. Che radio era? Quello di Antonello. Ma cosa di che l'ha arruinato già? Non so quanto è uscito bene, l'ho tutto scatavetrato. Invece è bello, invece, è uscito ben bene, è uscito. L'ho scatavetrato e gli ho fatti ben bene, gli ho fatti. Ma lui anche io è uscito bene. Se ti piace a te avanti Vittore, abbassa quel microfono perché sennò se ne comprendi nulla. Con che apparecchio stai uscendo? Guarda adesso l'ho messo a 6. Adesso va bene, dai. Anche appena di più in realtà. Ando in momento. Non pongo un po' che non ti piace. Dimmi una cosa, quella radio che stava operando Antonello, che radio era? L'MLS 200. MS 200, così è. MLS 200. Mai, Lima, Santiago. Sì, che me lo guardo se riesco a trovarlo. Mai, mai, viva Santiago, capito? MLS. Non riesco a capirti, no. Con lei che non riesco a capirti. Guarda così mi sento. Ah, va, sì. Ah, ma se fa vedere il Sassarese ti comprende ancora più bene. E il Sassarese, sempre MLS si dice, MLS 200, Mike Lima Santiago 200. MLS, andà bene. Così è, 200. Ma c'è una novità, è uscito un Beccarini coperchi, li ho scapavetrati bene e li ho verniciati. A bomboletta. E a rosso fuoco l'ho fatto. E la parte di davanti che colore è? Normale. Voglio da vederlo, mandamelo a vedere, fagli una fotografia che lo voglio vedere. Papà, aspetta, ti faccio la foto. Che appalto stai usando, dottore? Dottore? A me sta dicendo già. Ettore, non ti chiami da me. Chi si chiama, dottore? Ho detto, che apparato stai usando? Io? Un apparato grosso. Grosso. Il microfono, che microfono è? Ho mandato già. L'MB più 5. Ehi, aspetta che vado a vedere la foto, c'è il telefono in carica, vado a vedere. Ho fatto i coperchi rosso fuoco, ho fatto. Ma belli però me. Sono usciti, è un bel bello, no, non è male. Com'è, grigio? Il coperchio rosso fuoco e la mascherina normale davanti e non è uscito male, è uscito bene. Ah, è il Midland. La 68S. Non 48, vabbè, è la stessa cosa, la pimpina. Vuol dire che è preciso. Beh, Giacomo, ti sembra? Si deve essere allontanato. No, non è male, però io li vedo arancioni invece che rosso fuoco, forse è la luce, ti vedo arancioni, color arancione. Sembra, ma è rosso fuoco però. Quando è bello, a me piace, mi piace molto. E poi se ti piace a te, non ci piove, dai. Te che sei tu, che... sia soddisfatto tu là, del lavoro che fai. Avanti. A vedere subito come te la prima, a come averlo adesso è una sangosa. Quindi Tore, non ce lo puoi dire che apparecchio hai? Cosa mi hai detto? Non ce lo puoi dire l'apparecchio che c'hai? Non riesci a comprenditi. Ma sa un po' che io ti sento benissimo che ho la cassa, ma pure magari ti va un po' in saturazione, capito? Guarda a vedere adesso tu, mi pare che tu, che l'apparecchio tuo, perché cioè io ieri stavo parlando così, mi sentivo tutti bene. Oh, stasera no, so che non riesci a comprenditi. Io ti sento bene, mi già. Io ho la cassa Midland originale, però. Ma magari l'apparecchio che sta usando non sopporta gli amplificati, non lo so. Non so che apparecchio abbia. Sì, è un apparecchio 706. Ah. Ma nuovo tu? No, cazzo, vi lascio roba di zincani. Se riesco a trovare qualcuno che lo prende, ma gli ha chiamato in desi. Due manizzi, se vuoi fare l'affare, come dice ne hai su Brescia. È quello il prezzo che ti ho detto io. Il prezzo devi fare tu, non gli altri. Se poi non ci stanno, ciccia. Lillo! Cingomi, come va? Beh, Gigio! Sacco! Come mi senti tu, Emanuele? Perché Tore dice che mi sente male. Ah, la radio ti ascolto bene. Ore, lampade di tutto. Non so più. Prova a cambiare apparato a vedere come mi scendi, è stata una curiosità. Io ti ascolto bene, come ieri, la modulazione come ci avevi ieri. Ma attore dice che non mi capisce, deve essere dipende dal suo apparato, capito? Non lo so, io non qua ti ascolto bene. Io idem, ti ascolto benissimo qua. Va bene. E allora non dipende da me, dai. Cavagava, ma non è oggi a riposo. Sì, a riposo, ho già smontato il canale, ho fatto un altro ieri. Ho smontato stamattina alle 7 e domani mattina alle 5 ci devo essere. Non ti basta mai. Ah, questo è un turno del cazzo. Lascia perdere. E quello è per non prendere altro personale, capito? Ti sfruttano e non prendono altro. Ah, no, il personale c'è, e i turni di merda che fa lui. Dovrebbe essere chi fa la notte, dovrebbe avere il riposo, c'è poco da fare. Una giornata di riposo dopo che fa la notte. Io per dire, c'è un amico mio che fa i turni di notte all'ospedale perché lui lavora nel centro analisi. Praticamente quando fa la notte, poi la volta prossima gliela danno di riposo. Ma deve essere così. Quando fa la notte è normale, devi avere il riposo. Cazzo, ma che se non ha compreso un cazzo? Che se non ricomprendo un cazzo? Vabbè, rimango un attimo in ascolto, riprendete voi. Lascia la salsiccia. Ma mi sto facendo mezzo chilo di pasta con gorgonzola. Ale, va bene, solo mezzo chilo te le mangi. E beh, se no mi viene fame durante la notte, non sai. Antu, grazie stavo dicendo, hai sentito le nuove norme per la patente? Umberto, sentendo di nuove norme. Tipo? Che praticamente adesso fanno una specie di cernita, cercano se hai malattie, se hai difetti al cuore, tutte queste cose qua, e non puoi più guidare. Cioè, adesso la stanno facendo troppo grande la cosa. Io capisco se uno ha avuto infarti o roba del genere che è recidivo, ma anche per il diabete, per tutto. Ma mi sa che con le leggi stavo sentendo già le leggi dell'autovelos, sono andate fino in eccesso già. Mi sa che è saltato tutto, le macchine che porta in campo. Cioè, ma stiamo scherzando, è contro la Costituzione, me lo sai quella cosa lì. Non è che devo fare un gribiardo, no? Può mettere le leggi che vuole. Mi sa che già quelli dell'autovelox sono già saltati tutti, insomma. Adesso salterà anche quello, non ti preoccupare. Stasera su Rete 4 c'era, dopo pranzo, verso le 4, un servizio sull'autovelox, quello che tagliava i pali, che l'hanno preso su 45 anni già. Però dice che 7 su 10 li ha fatti lui, gli altri non si sa. Ha fatto bene. Bravo, in una fabbrica dove usavano questi attrezzi qua, capito? Quindi non gli è stato difficile prenderne uno e fare bambassa. Ha fatto bene, ha fatto. È arrischiato però, hai visto? Dalle telecamere l'hanno investigato. Chiappa. Sì, ma con le leggi salteranno tutte, te lo dico già, perché se non puoi, è anticostituzionale, ma bufunelli se c'è, cioè. Non stai scherzando, ma non ne parliamo nemmeno. Salvini è un pazzoide, ma questo già cosa buca. Io non so che cosa dovrebbe volere dei miei calcioni nel sedere, a farli saltare con la poltrona che ha, che c'è un macco di gadena. Io capisco, cioè, quelli che fumano, che fanno abuso di queste cose, ci sta, che usano droghe. che usano alcol, quello ci sta, ma uno che anda ammalato, che tu gli fai una cosa del genere, cosa sei? Sei un verme, un viscido se facciano una cosa del genere. A parte che quando uno non sta bene, la macchina le serve per fare la spesa, per tutto qua, come fa a fare la spesa se non c'è la macchina? Ma appunto, ma che se ne va? Adesso quando ci ho detto la scadenza, fa 5 anni dalla patente. Cosa tu? Si scade la patente. E ancora ce n'è, ancora ce n'è. Io ho fatto da poco avere bisogno della patente. Poi io per 10 anni già sono a posto. Probabilmente cambieranno le leggi in 10 anni di questa parte. Basta che non c'abbia la legge, poi te lo fa fare ogni 2 anni, perché questa gente qua come ti si divisa, capito? Manuele, ci sei? No, Manuele non c'è, avanti tu. Questi vogliono eliminare la gente, ma tanto sono sempre i giovani che fanno incidenti, no la gente, qualche anziano e anche vota, ma più di tutti sono i giovani. E a sé perché? Perché si comprano queste BMW, queste Audi a seconda mano, le pagano 5.000 euro, sono di quelle che hanno meno chilometri. E però la macchina, siccome i motori BMW e Audi sono buoni, camminano come il primo giorno che l'hanno comprata, capito? Quindi sono macchine che non sono per un neopatentato. Ma in teoria per il primo anno non si potrebbe guidare, non è così neanche. Vabbè che amato per andare a ammalare, però se uno la macchina la sa guidare, cioè se uno la macchina impara veramente a saperla guidare bene, impara a guidare i mezzi, perché li pigliano che si macchi, che si vola di gabbo, cioè che non hanno testa, non hanno. Però se uno sa guidare bene la macchina, impara con le marce, poi lo imparano molto la scuola a guidare anche, non è che pigliate la patente così nel manco già. Tenetevi, mantenetevi sudare, tenetevi. Però se uno usa la testa e impara a usare veramente la macchina, incidenti non succedono. Ma molti ragazzi sono esaltati, gli piace cosa? Io lo vedo da internet, mi anzi, non è che lo stia dicendo così. Lo vedo da internet, si fanno le gare la notte con le macchine, tutte BMW, macchine truccate, di quelle che hanno impianti stereo, di quelli cazzo che da 1000 watt eccetera in macchina, fanno vedere tutti gli impianti, tutte le luci, che tutta la macchina è illuminata di blu dentro eccetera, e se ne truccano le macchine, fanno le gare, l'ho visto io. Ma no, già, guarda, non è, cioè, sì, lo fanno, sono macchine di gabbena, so, però io la verità, la mia macchina non la uscirei mai a fare quelle sgazzate, cioè, ma mamma mia, guai, sì, io cammino perché cammino un po' in macchina, però l'ho tratto anche bene, l'ha tratto. E vabbè, ma quando cammini cominci già a consumare più fasce, tutto quanto, e il motore si consuma prima, cammina di un bel. Non è così, no. Comunque non sono tutti così, per carità, ci sono anche i ragazzi che hanno la testa, ma ce ne sono molti che bevono, fanno, si trovano tutti in uno spiazzo a Catania, lì in quella zona di Palermo, si trovano in uno spiazzo grande dove c'è la strada e si muovono a gurri, fanno sentire i motori accelerando, sgommando, fanno testa a coda, fanno tutte queste cazzate. È la battuta da reddito. Magari non è un centro abitato, capito, risulta più fuori città, però fanno un po' di cazzata. si ritrovano tutti quanti insieme, ci sono quelli che vanno proprio a guardare lo spettacolo, ragazzi, tutto bello di niente, a mai tempi, i ragazzi sempre. Quando partono le macchine, tutti esaltati, tutti mamma mia, a fare il rombo, che poi sgommani, fare testa a coda, tutte queste cazzate qua. E così, a parte che ti consumi gomme, che rubi le macchine, così, poi, avanti tu. Ci sono giovani esaltati, pigliano droga, ci vagliano e ammazzano un po', anche l'uno ammazzano gli addanti. È meglio stare lontano da esso. Adesso mi alzo, se ti vuoi togliere l'ospizio a cosa? Amores, ci fanno provare le Ferrari, le Lamborghini, della pista. Affitti e ti fai il giro di pista con la Ferrari o con la Lamborghini, ce ne sono diverse, tutte macchine di quelle grosse cilindrate. Sì, certo che però io dico una cosa, prima di Gurri io sono sempre del parere che bisogna conoscere il mezzo prima di Gurri. La cosa non è, ci sarà un istruttore, ci sarà che ti fa vedere come devi usarla, non è che ti lascia una macchina che costa un botto così, no. Bisogna sempre conoscere il mezzo prima di correre, se no ti cudito al muro e boh. No, ti ho detto bene, c'è l'istruttore prima che ti dà tutte le istruzioni come usare la macchina, poi ti danno il casco, eccetera, eccetera, ti fanno mettere il casco per guidare. Questo ragazzo gliel'hanno fatto come regalo di compleanno la ragazza e sono andati insieme sulla Ferrari. Le supercar ci sono, dai, tutto supercar. Sì, io non so cosa dire, la verità che mi ha fatto, meglio un gatto, sì, però prima io penso sempre, qualsiasi mezzo che corra, prima lo devi conoscere, cioè devi fare esperienza, poi piano piano si va sempre più forte. Anche io per niente, come fissava, vai a cenè. Ma non lo so come sia, se te la devi pagare se la sfasci. Certo che per andare a 20 all'ora non ci va nemmeno. Praticamente quelle macchine sono per farti provare un po' di adrenalina, per non farlo fuori dalla pista, te lo fanno fare lì di modo che tu ti sfughi l'adrenalina e non lo fai su strada. Ah, oh, quello sì, già, se ci vuole andare allora con una macchina del genere, però prima devo capire come funziona, capito? Ma da voi, oh via, io dico che ne dico che riore ne dico. No, c'è una sala prima dove c'è l'istruttore che fa vedere tutto quanto, come il cambio, come bisogna usarlo, eccetera. La messa in moto, ti fa vedere tutto. E poi aspetta a te quando si ha la prova. Perché tra la teoria e la pratica è un poco diverso. Non so, quella puttina che da si può salvezzino. Non ti la cane così una Ferrari che costa un pacco di dinà. Perché quella se ti scappa di cudare un muro da giudizio. È pericolosa. Perché la trazione posteriore è diversa dall'anteriore, è una macchina che ha ciambe di cavalli. E la devi saper tenere, no? Anche gente che ha la patente 10 anni, se non sa come guidarla, quello la prima cantonata è la soglia. Tranquilla mille per mille, perché la macchina ti parte di culo e ti scino la mara. Però il giocatore del Porto Torres, che c'aveva la Lamborghini, e quando vidi a me mi accelerava, che poi era una di quelle moto grosse, quando accelerava diceva, per far girare le ragazze, lo vedete. Tu già stato un cagone che era mi devasta. E tu doveva via la Lamborghini, bella macchina. è bella e in più il rombo mi piace. Sì, però devi fare esperienza con queste macchine, anche fare un bel gavante da dei sabettini. Se no, vedi il teci tu, chissà. Ciao, e tu non ci vai amore se faccio un giro la Lamborghini in Ferrari. Ma ieri ero andato, se gli ho fatto provare, e in questo momento se guasca a buco, pensato a Vittorio Goffano, Franza Eddi, vado da dove dico Zanera, forse era staccato il filo, si era staccato, che non abbiamo rimesso a posto. Ma com'è che era meccanico, io non l'avevo fatto pagare un viaggio. No, non ha pagato nulla, no. Non ha pagato nulla lui. L'hanno chiamato più che altro per provarla. No, perché le affittano, puoi dire per mezz'ora devi pagare 200 euro, per un'ora 1000 euro, non lo so quanto sia, io sto dicendo una cifra così, però so che anche per le moto si paga un bel po'. Sì, per la macchina il mio genero mi aveva detto, dice 250 euro mezz'ora, così mi ha detto, poi se vuoi fare di più devi dare la fedina. E intanto guarda, consuma un bene, solo per la benzina ci vogliono i soldi. Sì, ma non è la stessa benzina che mettono al rifornitore, no? È tutta diversa la benzina. E che benzina è? Con un maggior numero di ottata? Sicuramente usano benzina di quelli che usano le macchine da corsa. Ma tu lo sai che benzina è? La vendeva anche la Leni prima, l'hanno fatto 80, poi c'era la 100, c'era, adesso non l'ho più visto. Quella lì, la macchina della polizia, la mettevano benzina così, io lo so, ma la mettevano con maggior numero di 80. Le macchine della polizia sono così, cioè, sono lavate, lo sai, pure di no. Ma io ho chiesto a mio suocero, sì, quando c'era mio suocero lui mi ha detto, no, che aumentavano gli ottani della benzina e basta, non erano truccate da nulla. Cioè qualcuno ha dolore di pancia, lo dovete sentire. No, io ti pregare. Sì, avanti. E boh, non si sente più. Ha detto, uia, uia. Vediamo un po'. Emanuele, in DC. Sto aspettando, mi sta ascoltando, tranquillo. Sì, lo so che ci sta ascoltando, ma sei mangiato. Sì, ho aspettato un filo di pancetta. Già vivi. Sì, sì. Oh, è salsiccia, pancetta. Oh, yeah. Tu hai una punta bianca, ma il lente, si giurente, va. Beh, tu cambi la macchina che ti sei mentito rocco in due, me. Se di sì. No, uno, in occhi era due una maledetti era. Secondo me era bella della macchina mia. Lì c'è il denti, vero? Cazzo c'è andata la finestra, la cazzo è fatta tipo wrestling. E poi di lì, ma tanto non te la toccano di giorno. Se lo fanno, lo fanno di notte. E meglio adesso sono tra maledetti, il muro la notte. Metti la telecamera puntata verso la macchina. È accesa. È accesa. Uia. E comunque qui bisogna stare attenti con la zona. Se non sei attento devi pigliare la roba sotto il culo. Non si muore in broma, cazzo, che io dico una giusta che mi rimangio, mi rimangio vivi. Fulk! Fulk, forse non sarebbe proprio un ragazzo su cui mancati, fa una cosa del genere. Dove? Ehi, già, dimmi. Sei Antonio arrabbiato. Arrabbiato, sì. E a chi le dà la pelle della macchina? A chi ci magari la pelle di Antonio si vede all'esterno, roba del genere? La Romagna ha già avuto io, verso le due mesi quando si comparando c'era la baita di Trento a vedere E oggi ho fatto vedere cosa era mai bene. Ha detto, l'ho venuta da Purani, no? Sta a Ciappone, che ora te lo do io. Te lo do, certo. Ma era mai da vedere. Ah, beh bene, ha detto, guarda, c'è un ruccio questo, sta attento che non prende i colpi, si è avviato camminando, borbottando. Io la voce al centro commerciale, ho trovato due che stavano controllando dentro la macchina con la faccia attaccata al vento, e ho preso le chiavi e ho detto, aspetta, ti do le chiavi così almeno la apri, no, stavo guardando a quanto correva. Quando ancora andava che c'erano i negozi, c'era anche l'asta, noi andavamo all'asta e giocavamo all'asta, no? Quando ci interessava qualche cosa abbiamo preso un bel po' di roba. Oggi me l'ho tutta lavata, me l'ho tutta pulita, me l'ho e via, l'ho battuta dentro, l'ho pulita, però una volta al mese la faccio fare dal lavaggio bene. Io anzi, l'ho lavata dentro l'altro giorno, ero fermo al quadrato, l'ho tutta quanta pulita all'interno, ho messo profumo, avevo appresso la aspirapolvere, tutta aspirata, bene, ho messo il profumo, tutto canto, però fuori non l'ho fatta perché stava piovendo, l'avevo fatto il giorno dopo e poi non l'ho fatta, perché è inutile che la fai, poi piove e te la sporca di nuovo, c'era quella pioggia sporca, me l'aveva tutta fatta marrone. La mia già è abbastanza, l'ho pulita abbastanza bene, no? È a posto, l'ho tutta lavata dentro, tutta, cioè, l'ho tutta aspirata, l'ho passata la pelle sul cruscotto, no, io già l'ho fatto un bel bene l'ha tratto, ma pure così vincia però già. Pensate che ti curti anche qua, quando va. No, ma l'ho fatto bene io. Adesso più là vediamo che se mi trovo qualche soldo, me la voglio fare tutta bene di carrozzeria, me la voglio fare e via, cioè c'ho la macchina nuova. E cosa c'ha bu macchina se mi va bene? Vabbè. Ma poi a pochi chilometri la tua, non è che sia di quelle che è chilometrata un bel. Ho preso a 52.000, adesso ne è a 58. E cosa vuoi che sia? Se è trattata bene, è stata cambiata la cicla di distribuzione, li fai tutti italiani, la macchina va bene. Dore, oggi è poca voglia di parlare, è vero? Cazzo da 70 con la mia. Allora si vede la mia 192. No, la mia ne avrà 42.000. Ma tu la tieni sopra la mobile la macchina. Deve essere così, deve essere così, devi tenerla bene la macchina, no, perché la macchina corsa e quando tu va bene alla carrona non è bello, perché la macchina costa troppi soldi, già mi dà fastidio come la mia, la devo verniciare. Oh, Arturo, la macchina sì, la macchina devi tenere conto, quello sì, però se la macchina devi andare a lavorare, per dire ti devi fare 60 km, via lì, e 60 km, tu là, è normale che i chilometri li fai, perché io, ti ripeto, i chilometri li faccio andare a lavorare, tutto lì. Io, come me faccio 80 al giorno io, l'ho data la macchina mia con 350.000 km, non ti dico altro. Appunto, la macchina sì, la devi tenere conto, ma fino a un certo punto, perché la macchina ti serve per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, per farti i cavoli tuoi, la macchina non vuole mettersi sopra a un comodino, capito? La macchina è fatta per mezzo di lavoro, si può dire. Sì, ma non la devi dire a chi, però. Io la uso. Certo che se devo andare a due passi a prendere il pane, mica mi vado in macchina, ci vado a piedi, ce l'ho in questa due passi. Quello sì, se c'è una cosa due passi non prendi la macchina, ma uno che vive in campagna è normale deve prendere la macchina serve per quello. Io la macchina la uso quando mi serve, quando mi necessita la prendo e la uso, però non sono di quelli che... Sì, d'estate giro un bel, d'estate sono sempre furti. Ascolta a mezza, e beh, visto il gambetto, sono io. Già l'ho visto, bastardo, che io non ne ho uno. L'Italia gli anabolizzanti, li do, hai visto? Ma tu ce l'hai già, lo so, ce l'hai, uno giallo. Allora, me ne dato uno giallo, uno verde e uno blu, ti ricordi? Dopo tu non so che colore ti hai preso, uguale mi sembra. Uguali li abbiamo presi, no, uguali, la sette l'ho presi io. Solo che non ne ho trovato né blu, né giallo, né verde. Tu quale hai trovato? Solo il giallo. Tutte e tre il vero, il blu, il verde e il giallo, tutte e tre il vero. Io non comprendo, a me mi ce l'hanno maniati sicuramente, non li ho più visti. Dal momento che li ho messi non li ho più visti. Che fine hanno fatto non lo so. E ma sì che come ti sono parati, non mi c'è ce l'ha maniati. Che cazzo? E se non si rimane la polivina, ma secondo me sono lì. Ah, sono nascosti, perché i gabbiti si nascondono nelle rocce, dentro la brocca, capito? E devo provare con la pila a vedere dentro la brocca se si vedono. Ma è bello che mi riescono anche davanti, cazzo li vedi, te li ho fatti vedere ieri, cazzo riescono a mangiare davanti, sulle piante, sulle rocce. Devo guardare che vita hanno, quanti anni vivono, non l'ho mai guardato. Comunque, quando lo cerca quello lì, ne prendiamo un altro po', ma non tre, e che sia un poco più male che ti dia qualche femmina. Ehi, vabbè, adesso vedo, ho altre spese, mi sto curando, devo comprarmi il busto adesso. E adesso se mi sale il pallino, prendono bene, 500 euro quel pesce. Mi devo prendere uno dei millilitri. Sì, così grolla un barazzo. Adesso ti dai ciampignosi. C'è un barazzo per si grolla. Altu, ma te li immagini questo ragazzo? Figlia dell'acquario direttamente, c'è la... ti fai la cosa di pesce, ti fai. Laghetto. Ma un laghetto di vende. Mica c'è un break, ho fatto l'entrare, ho fatto un po' di bianco. Ma avanti chi sta breccando? Io faccio un capisciuto, se mi stessa una cosa che mi piace non vengo da lavare, la prende bue. Aspetta un attimino che c'è un break sotto un po'. Sì, ci sento, chi sì? Bandiera gialla! E dove ti trovi? A Sorso! Ah, Campanello, ho capito. Sei molto basso e non so se gli altri ti ascoltano. Avanti, vabbè, lo ascolti la vita. Ah, io no. Ascolta a me, dilli se quel vecchio bandiera gialla che modulava negli anni 90. Quel vecchio bandiera gialla che modulava da Campanella, forse lui, che conosceva anche a Sinbad, dimmi così. Attenzione, bandiera gialla, ma tu modulavi negli anni 90 anche. Non intendo più. Ma io non lo sento, secondo me è lui, perché bandiera, io conoscevo un certo bandiera gialla che modulava negli anni 90. Lo conosceva lui, il padre, sono andato anche a casa sua, ma non so se è lui, il vecchio bandiera gialla. Ma tu non eri amico di Isidoro? Cosa? Non eri amico di Isidoro? Chi è che Isidoro? Sono i Campanelli. No, non conosco niente di Isidoro io. Sono già a Campanelli da Sardia. Io conoscevo questa bandiera gialla che modulava, mi ricordo che modulava con Sinbad e l'ho conosciuto per quello, Sinbad era mio zio, e l'ho conosciuto per quello, e abitavano vicino con bandiera gialla, per quello che gli ho detto, dirgli se conosceva Sinbad. Ma non lo sento più, non si sente più, dopo anche... Cappa, no, io non riesco a sentirlo, la verità ti dico, non riesco a sentirlo. Lo sentivo abbastanza anch'io, Santiago 4, radio 2, c'era pure 2 di radio. Anto, quella di fronte a casa tua, com'è la situazione? Provo a indovinare. Occupato? Ancora no, gli hanno in fasciata. Guarda, io l'avevo preso dal fondo del cuore, ci avevo buttato giù. Ega! Quelli che devono chiudere, avrei chiuso, blocchetti, guarda che non erano più entrati. Vabbè, ci sono delle cose, ci sono... Che belle cose che si devono risolvere, che io ti dirò, però volevo farlo legalmente, capito? Sono delle cose che si devono risolvere. Sì, ma legalmente, se va al comune, va all'ente popolare, non te ne fanno, perché non te ne fanno questi bastardi. Se vai migliori, cioè, o sai quando te le fanno? Tu prega, ma se quando te le fanno? Se c'è assistente sociale con gli attributi, allora trovano un accordo, capito? Che lo sono di zendio per esperienza. Guarda, no, so, fammi le piccole non ne ho io. Ma tu sono di zendio però. C'è ancora che fa parte l'uno piccolo. No, che cazzo ci ha fatto? Lascia stare, ho già dato io, ne ho tre, mandano. Ma c'è un mando, ti dà di casa. Vabbè, no, mi sa dai, mi lascio la casa. Che ragazzi? Casa, mi lascio. Ma lì com'è, in affitto, Emanuele? Sì, in affitto. Anche quello è un mutuo. Cosa ne fai in casa a fare mutuo? Non sono tempi da fare mutuo, no? Lo fa chi può, però pagando l'affitto li perdi, insomma, invece col mutuo li dai per il mutuo e poi la casa rimane la tua. Ho capito, ma anche se io ci ripenso e ci ripenso queste cose, ho già. Anche se mi facevo il mutuo, un domani ha cacato la bileca a casa, a miei figli, si attacca a casa perché i miei figli, ho fatto di tutto per loro e poi per che cosa? Mi hanno fatto affitti tutto quanto, cosa rilascio la casa, ma anche se mi vanno a far culo, mi prendo e pago l'affitto ogni mese e basta, e che se me lo fa fare? Affitta, mutuo, ma stai scherzando. Vabbè, io da giovane ho ragionato diversamente, adesso la casa è mia. Ho pagato il mutuo, ogni mese mi mettevo da parte 500 vinarie e poi è arrivato quando dovevo pagare ogni 6 mesi da vissuto. Sì, quando ce l'ho fatta a pagare la casa. Già non ho dormito le prime notti, perché con tutti chi si dirà che dovevo dare. Non conviene, oggi guarda, ti ripeto, non conviene più fare un mutuo. Oggi per farlo pagano l'affitto e basta, non conviene più, per che cosa? Un domani grippi e la buca, la casa la lacri. Prendimelo il culo tutta la vita. Ma chi è Ginko? Ma dalla penso brutto. Vabbè, sono modo di pensare. E quello c'ha ragione, se non c'è nessuno a lasciare, non c'è genitori, non c'è fratelli, non c'è nessuno. Ma non pensare quando muri, pensa a vivere. Sì, devi pensare a Bologna, lascia perdere già, devi pensare anche a quello, per le condizioni che stiamo vivendo. Cazzo, oggi ci sei, domani non ci sei più, lascia perdere. Mio fratello aveva 57 anni e cosa ha avuto? Un cazzo. Ma i vaccini infatti li aveva? Tutte e tre li ha fatti e non va via nulla, non c'aveva nulla. Se coricato, non ce n'è pensato più. Ma secondo te è vita questa? Ma vai. A me mi sa che questi vaccini hanno rovinato un biglietto, anche a me mi hanno trovato un'aritmia cardiaca quando ho fatto l'elettrocardiogramma. Aritmia cardiaca, mi ha dato un po' di medicina, adesso non ne so più tenere, se la bideluce, troppe medicine, capo, devo prendere solo 4 per il cuore, non ne gioco più biglietti, avanti tu. Euro ma pesce, non so bene né una e bu. Nel resto è una per il diabete e l'altra la circolazione, bu. Basta così. È una baffa mi biscia. Oh yeah. Avanti, mi è sembrato Luca, avanti.